in primo piano. Buongiorno ancora, oggi giornata molto interessante sui grandi quotidiani, interessante per le notizie che vengono offerte ai commenti e interessante anche per le differenze che emergono fra i quotidiani di informazione e i quotidiani di partito o con una proprietà, diciamo così, molto legata a interessi di parte. Partiamo dai giornali di informazione. Il Corriere della Sera intitola Obama più tasse per i ricchi, riferendo appunto del discorso di ieri del presidente Obama che presenta il nuovo piano del governo americano a una data dalla presa della carica. Ecco la prima finanziaria, maggiori fondi per ambiente e difesa, 2.000 miliardi di tagli alle spese. Il Corriere enfatizza questo aspetto dei tagli. L'annuncio del presidente che vuole estendere la sanità a tutti, questa è la titolazione. La Stampa dice Obama alza le tasse ai ricchi, un titolo abbastanza simile, e nell'occhiello il disavanzo raggiunge la cifra record di 1.750 miliardi di dollari introiti dalle aziende che continueranno a inquinare. E nel sommario, per dare a tutti l'assistenza sanitaria, è per questo che si alzano le tasse, nuovi finanziamenti alle banche. La Repubblica ci dice, uguale agli altri, Obama più tasse per i ricchi. Il presidente presenta la sua prima finanziaria e poi un accenno al Papa, su cui torneremo poi. Il Papa prepara un'enciclica sull'economia, la crisi colpa dell'idolatria del denaro. Nel catenaccio, il piano USA per la sanità a tutti, il rilancio delle energie verdi, quindi abbastanza simile alla Stampa. E veniamo ai commenti che andiamo a leggere rapidamente. Vittorio Zucconi, storico corrispondente di Repubblica dagli Stati Uniti, scrive sotto il titolo Il dogma capovolto. La nuova rivoluzione americana, promessa e coronata dal trionfo elettorale, arriva un mese dopo l'insediamento di Obama e si realizza attraverso il solo strumento legittimo che le democrazie moderne offrano a chi le governi. La spesa pubblica, la leva fiscale, la redistribuzione della ricchezza nazionale dal portafoglio di chi più ha alle tasche di chi non ha, una rivoluzione imposta dal naufragio spaventoso del mercato finanziario. Il progetto di bilancio che ieri la Casa Bianca ha presentato al Parlamento per una discussione che sarà furibonda perché non esistono nel Congresso degli Stati Uniti partiti di proprietà e ricatti di voci di fiducia, non è soltanto ciclopico nelle cifre, 3.500 miliardi di spesa totale, 1.350 miliardi di disavanzo, praticamente l'intero prodotto interno italiano, beh qui c'è un piccolo errore, sono 1.700, 318 miliardi di nuove entrate fiscali, imposte al reddito di chi guadagna oltre 250 mila dollari l'anno per creare un fondo di riserva per la futura copertura sanitaria universale che ammonta a 634 miliardi. Quindi gli Stati Uniti si propongono di copiare l'Europa e anche il nostro scalcagnato paese. La sostanza del budget obamiano, prosegue Zucconi, è nel capovolgimento di una cultura politica che dall'elezione di Ronald Reagan nel 1980 e ancor prima nelle periferie degli stati vedeva nel governo centrale non la soluzione dei problemi ma il problema. In chiusura del suo intervento, Zucconi affaccia anche le difficoltà, riconosce che l'operazione sarà difficile perché aumentare le tasse, sia pure a pochi nei momenti di crisi acuta, è sempre rischioso, perché avviene sul corpo di un malato grave. Ma è anche un'operazione indispensabile perché la fede nella capacità autoequilibrante del mercato, cara ai teologi del liberismo assoluto come Alan Greenspan, si è schiantata nei giorni di settembre, quando il mercato ha presentato il conto del proprio naufragio, proprio a coloro che disprezzava, cioè al governo, dunque ai contribuenti, rimasti a reggere il sacco vuoto di un'illusione finita. Repubblica interpreta, diciamo così, il pensiero di sinistra. Vediamo come invece il Corriere della Sera, che occupa una posizione più centrale nello schieramento culturale italiano, cerca di interpretare la svolta di Obama, dice svolta con rischio. Massimo Gaggi, corrispondente del Corriere dagli Stati Uniti. Massimo Gaggi dice: Barack Obama rischia il tutto per tutto, mettendo in pista contemporaneamente la sanità universale per tutti gli americani, la riforma scolastica e una rivoluzione dell'energia che costerà cara ai grandi produttori di gas serra. Ma soprattutto per finanziare l'enorme dilatazione della spesa pubblica, il presidente democratico rompe il tabù dell'aumento delle tasse, che nemmeno il suo partito aveva osato infrangere negli ultimi due decenni. Non solo niente rinnovo degli sgravi di Bush, ma aliquote più elevate sui redditi oltre i 200.000 dollari e progressiva riduzione delle detrazioni a partire da quelle per chi destina una parte del reddito ad attività di beneficenza. Qui Gaggi tocca un problema molto interessante, e cioè il passaggio della spesa sociale dalla iniziativa individuale privata della beneficenza all'iniziativa pubblica, dal regalo, diciamo così, al diritto. Ecco cosa scrive Gaggi. Il nuovo presidente non ha mai osteggiato la beneficenza e anzi di recente ha incoraggiato l'impegno sociale delle associazioni religiose, ma gli abusi commessi anche in questo campo, a cominciare dalle opere d'arte prestate a musei sconosciuti solo per pagare meno tasse, devono averlo convinto che è ora di riequilibrare la situazione. Verso la conclusione del suo pezzo, Gaggi aggiunge: certo, la debolezza della finanza è anche un'opportunità per Obama. Con i titani delle grandi banche ancora in sella, probabilmente non avrebbe avuto la forza di varare riforme così radicali, che però, avverte, sono solo proposte da sottoporre all'esame del Congresso. Per far cadere le resistenze, Obama scommette su un'emergenza che è veramente da economia di guerra. Un deficit pubblico mostruoso come quello annunciato ieri per l'anno in corso, 1.750 miliardi di dollari pari al 12.3% del PIL, non si vedeva dal 45. In Italia ci stracciamo le vesti se passiamo dal 3 al 4%. A questo punto la domanda che ci dobbiamo fare è: davanti a questo piano così importante, quali sono le reazioni, quali saranno le conseguenze? Come andrà a finire? Chi può dirlo? Ma qualcuno ci prova. Chi ci prova è un think tank, cioè un centro studi, che si chiama Leap Europe 2020, che viene spesso citato da testate come l'Economist, Le Monde, il New York Times, il Financial Times. Ebbene, questa think tank ha redatto un rapporto che ci viene raccontato dalla stampa, e secondo questo rapporto l'Italia dovrebbe riprendersi nel 2010, mentre per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna i tempi possono essere più lunghi. Il rapporto distingue fra la crisi finanziaria, che è quella delle banche, principalmente della borsa, la crisi economica, che è quella che riguarda tutti noi, la crisi sociale e la crisi politica. Ebbene, per USA e Gran Bretagna la crisi economica dovrebbe durare fino al 2013, mentre la crisi finanziaria potrebbe finire già alla fine del 2000, di quest'anno, del 2009. Mentre per il Canada, il Messico e la Scandinavia più o meno sarà lo stesso, i paesi che dovrebbero avere una maggiore capacità di reazione, forse perché partono da livelli più bassi, sono i paesi poco sviluppati e l'Europa e la Russia, che secondo appunto questo think tank dovrebbero riuscire a rimettere la testa fuori dalle difficoltà nel 2010. Vedremo se hanno ragione o meno questi studiosi. Ma la grande crisi che abbiamo di fronte impone anche una svolta nel pensiero, richiede nuove elaborazioni, e così sta per scendere in campo la Chiesa Cattolica. L'Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, ci racconta che il Papa, nell'incontro con il clero della diocesi di Roma, è tornato sull'emergenza svelata dal crollo delle grandi banche, dicendo, qui riprende l'occhiello di Repubblica, L'Avvenire, idolatria e avarizia alle radici della crisi. Benedetto XVI conferma: sto lavorando a un'enciclica su un tema difficile di modelli economici e sociali buoni. Il tracollo del sistema bancario, scrive ancora L'Avvenire, mostra l'errore di fondo. L'avarizia e l'idolatria oscurano il vero Dio è la falsificazione di Dio in Mammona. La Chiesa deve rispondere anche sul terreno della riflessione perché, avverte il Quotidiano dei Vescovi, i grandi moralismi non aiutano se non sono sostanziati. Chi ne volesse poi sapere di più su che cosa bolle in pentola nella Chiesa Cattolica non ha che da aprire il Sole 24 Ore a pagina 13 e leggere l'articolo di Carlo Marroni che ci dà dei retroscena, Ratzinger e la Chiesa in ordine sparso. Marroni ci dà un quadro della Conferenza Episcopale Italiana divisa fra progressisti, terzisti e linea dura. Tra i progressisti cita l'arcivescovo di Milano Dionisi Tettamanzi e il vescovo di Terni Vincenzo Paglia, fra coloro che si pongono in mezzo il presidente della CEI, come era forse ovvio, Angelo Bagnasco, e il vescovo di Chieti, il teologo Bruno Forte. La linea dura è rappresentata da Camillo Ruini, che è l'ex leader della CEI, e dal cardinale di Bologna Carlo Cafarra. Ma, come avevamo detto, veniamo alla distinzione che emerge fra i tipi di giornali per come hanno trattato la notizia del giorno che è il piano Obama. Ecco, la cosa singolare, rilevante, è che i giornali della destra non l'hanno praticamente trattato. La Padania non ne parla, il Libero non ne parla, nel suo supplemento Libero Mercato dedica l'articolo più piccolo, proprio 5 righe di numero in prima pagina, con un titolo Obama fa volare il deficit USA, e l'articolo è a firma di Glauco Maggi da New York. Forse la ragione di questo imbarazzo viene spiegata nel giornale, nell'editoriale di Nicola Porro. Nicola Porro dice: il presidente degli Stati Uniti Obama ha ribaltato il sogno americano degli ultimi 30 anni. La ricchezza deve essere tassata più di quanto sia avvenuto sino ad oggi. Le fasce più abbienti della popolazione, le grandi multinazionali, devono pagare un prezzo più alto alla società. Questa è la descrizione sintetica di Porro, che dice poi, concede come artificio retorico, è difficile oggi mettersi dalla parte dei ricchi banchieri con stock option milionarie, è impossibile solidarizzare con i manager del settore automobilistico che si spostano con i jet privati, ma siamo sicuri che il pianto dei ricchi sia la soluzione dei nostri problemi? La preoccupazione, e qui arriva al dunque, non riguarda tanto e soltanto gli Stati Uniti, patria del sogno meritocratico, riguarda piuttosto l'altra parte della Luna, la parte in ombra, quella che non ha mai dato un'adesione completa ai principi liberali di oltreoceano, la nostra parte, quella del vecchio continente, che ha fatto i conti per secoli con le proprie ipocrisie pauperiste ed egualitarie, i conti con le nostre pulsioni storiche, che hanno preferito nascondere il frutto del successo quando esso si esprimeva con gli alti gradi del termometro della ricchezza. Il rischio grande, enorme, che corriamo è compiacerci dell'ultima grande ed efficace comunicazione obamiana, il rischio di approfittare dell'America per recuperare quell'atteggiamento redistributivo che ha impantanato le nostre società, rendendoci tutti un po' più uguali, ma anche tutti un po' meno liberi. Questo è il pensiero del giornale della famiglia Berlusconi. E da questo punto di vista appare singolare la scelta editoriale dell'Unità, da poco, da qualche tempo diretta, da Concita De Gregorio. Ebbene, l'Unità apre con un titolo a tutta pagina, da Pro Fabidella, una vita precaria, storia di Amalia Perfetti, dopo 21 anni di precariato, Gelmini cancella la mia cattedra, ho fatto domanda per diventare bidella. E poi ci sono altri titoli su questioni minori, ma di Obama si parla soltanto a pagina 24 con un articolo di Sintetica Cronaca. È una scelta editoriale curiosa che va combinata con quella del giornale più classica, invece la titolazione del manifesto che mette la solita... Obama nella grande foto di prima pagina e lo intitola Dr. House, svolta negli Stati Uniti, Barack Obama, per rendere accessibili i costi della salute a tutti gli americani, soprattutto i più poveri, annuncia un impegno storico per la riforma sanitaria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si pone in sintonia con gli altri giornali. Ecco, il venerdì è il giorno nel quale vengono diffusi anche i settimanali di notizie. Che cosa ci propongono oggi Panorama e l'Espresso? Panorama, il news magazine della Mondadori, mette in copertina uno squalo dalle cui fauci escono biglietti da 50 euro. Il titolo è Squali, come difendersi dai pescecani della finanza. La sostanza dell'inchiesta viene così riassunta: promesse mirabolanti, guadagni sicuri anche per investimenti inverosimili, eppure c'è chi ci casca. Ricchi adescati da gente come Madoff e Stanford e normali risparmiatori abbindolati da promotori e funzionari di banca. Inchiesta, consigli di avvocati specializzati e un decalogo, le cose da fare sempre e quelle da non fare mai. Diversa è la scelta dell'Espresso, dell'omonimo gruppo editoriale che fa capo a De Benedetti. L'Espresso apre con una inchiesta molto approfondita sui giudici ed è singolare perché l'Espresso è un giornale che storicamente è sempre stato molto vicino alla magistratura. Si intitola Processo ai giudici. Sono disorganizzati e poco produttivi, con oltre 9 milioni di cause in evase, ma sono anche tra i più pagati d'Europa e ora il governo è più preoccupato di imbrigliarli che di renderli efficienti. L'inchiesta è, come dicevo, molto lunga. Vi citerò soltanto una curiosità, perché spesso se ne parla, sugli stipendi dei giudici. Il magistrato ordinario in tirocinio, cioè quello che una volta si chiamava l'uditore dopo che con 6 mesi di anzianità, ha un lordo mensile di 3.429 euro. Il magistrato più alto in grado, normalmente anche di solito parecchio anziano, il primo presidente della Corte di Cassazione, arriva a 18.800 euro. A proposito del settimanale L'Espresso, si può ricordare con una vena di ironia, perché anche la persona sa ridere, sa sorridere, il trafiletto satirico del Foglio che si intitola Andreas Version e che prende di mira proprio De Benedetti, che come sapete qualche settimana fa aveva annunciato l'intenzione di dimettersi da tutte le presidenze che aveva nel suo gruppo, ma che poi l'altro giorno è rimasto alla guida dell'Espresso. Ecco come Andrea Marcenaro ricostruisce la cosa. Il clima era commosso e teso. Carlo De Benedetti aveva dato l'annuncio ricordando di aver compiuto quest'anno 50 anni di attività professionale. Quando il presidente Napolitano mi ha consegnato il distintivo che indosso pochi mesi fa, quello del 20° anniversario della nomina Cavaliere del Lavoro, erano state le parole dell'ingegnere, eravamo solo in 3 sui 20 che l'avevamo ricevuto quell'anno. Nonostante la mia ottima salute, il tempo è passato anche per me e alla fine di quest'anno compirò 75 anni. Da quel momento, dice Marcenaro, come capita soltanto agli industriali con due coglioni così, è salpato verso i 74. Ricordiamo in chiusura della nostra trasmissione L'Economist, che sotto il titolo Power Games, che gioca sulle parole power potere o power potenza elettrica, ci racconta come l'Enel ha chiuso l'acquisto della grande società spagnola Endesa e critica la politica del governo spagnolo e il risultato delle liberalizzazioni in Europa, che hanno condotto sì a qualche forma di maggior concorrenza all'interno dei mercati nazionali, ma alla costituzione di pochi grandi oligopoli, sostanzialmente 3, il francese DEF, il tedesco RWE e E.ON e l'italiana Enel, che hanno in mano tutto il potere nella distribuzione e nella produzione elettrica nel vecchio continente, dice. Quindi siamo passati da alcuni monopoli nazionali a pochi oligopoli transnazionali. E con questo vi saluto, grazie.